24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati con 24 mattino e con lo spazio dedicato all'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Che ancora continua a ballare, insomma. Sai com'è, reduce, ogni tanto si torna un po' indietro negli anni. Reduce dal sparo concerto, le ultime cartucce. Diciamolo così, reduce dal concerto di Madonna. Sì, praticamente da San Siro sono venuta qua direttamente al lavoro. Hai presentato anche questo concerto? No, questa volta no, Veronica ha detto che non era il caso, ha voluto fare tutto lei. Va bene, perché bene. Quando va a San Siro, Deborah sale o presento, sul palco o non e presenta affatto i concerti. Esatto. Allora, oggi parliamo di banconote false, sì, di euro false, attenzione, perché ce ne sono tanti in esatto giro. Esatto, possiamo spiegare agli ascoltatori. Perché da due giorni mi insegui con quella tua banconota da 20 euro e mi chiedi di cambiartela con due da 10? Lo vogliamo raccontare il motivo perché stai tentando di fare di tutto questo? Vabbè, solo per 20 euro. No, adesso vedo come posso perseguirti. 200, cerco di capire come posso perseguirti questa mattina con il tenente colonnello Amedeo Farrugio. Naturalmente ritroviamo il seminato serio della nostra storia di questa mattina. Il tenente colonnello Amedeo Farrugio è comandante del gruppo antifalsificazione monetaria e altri mezzi di pagamento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Tenente colonnello, buongiorno. Sì, buongiorno. Benvenuto a Soldi e Dintorni. Allora, questa mattina lo abbiamo interpellato per quale motivo? Perché ci hanno un po' incuriosito i dati che sono stati diramati nei giorni scorsi proprio dalla Banca Centrale Europea, da Francoforte. Arriva questo rapporto secondo il quale nei primi sei mesi del 2009 il numero di banconote false rimosse dal mercato è aumentato del 17% rispetto invece agli ultimi sei mesi dell'anno scorso. Sono 413.000 gli euro falsi ritirati dalla BCE rispetto ai 354.000 dell'ultima metà del 2008 ed è la prima volta dal 2002 che il totale dei falsi sequestrati in un semestre supera la quota di 400.000. Naturalmente, tenente Farrugio, dobbiamo un po' precisare qual è la vastità del fenomeno per quello che riguarda l'Italia, ma sono davvero dati così preoccupanti? Ma guardati così sembrerebbe di sì. In realtà, se devo parlare da addetto ai lavori, direi di no. Nel senso che i dati che noi abbiamo riguardano proprio il numero dei biglietti ritirati dalla circolazione e che in effetti diciamo danno un dato di un aumento del 17% circa. Se però vogliamo guardare diciamo l'aspetto positivo di questo dato, emerge che la maggior parte di questi banconote ritirate o sequestrate ha riguardato banconote da 20 euro, ovvero banconote di piccolo taglio, quindi non di un grande valore. Questo sostanzialmente può significare due cose. Primo, che il valore complessivo delle banconote false ritirate dalla circolazione, in termini quindi di milioni di euro, è rimasto sostanzialmente immutato. E secondo, che i falsari hanno puntato un po' di più, questo dobbiamo dirlo, sulla disattenzione dell'utente nel maneggiare l'euro. Una disattenzione che è ovviamente inversamente proporzionale alla diminuzione del valore nominale della banconota. Quindi, per assurdo, una delle cose sulle quali punta maggiormente il falsario non è tanto la qualità diciamo del suo prodotto, ma è proprio la scarsa attenzione che ripone il consumatore nel maneggiare una banconota. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché significa, poi magari lo preciseremo nel corso della trasmissione, che se ci dovessimo imbattere in una banconota falsa, se ce la ritroviamo perché ce la rifirano in qualche maniera, teoricamente si potrebbe riconoscere molto facilmente, invece la nostra disattenzione molto spesso ci porta a non riconoscerla così facilmente come sarebbe possibile farlo. Tenente colonnello, il fenomeno per quello che riguarda l'Italia, ecco, le banconote più contraffatte, ci diceva, nell'Eurozona sono quelle da 20 euro. Riguarda anche noi questa estensione del fenomeno? Sì, riguarda anche l'Italia, è un fenomeno che è legato proprio a una statistica di quest'anno, ripeto, ma è anche legato appunto al fatto, non so, che il cittadino, la classica massaia che va a fare la spesa al mercato, si sofferma poco sulle banconote di più piccolo taglio, quindi è proprio quella sui quali i falsari puntano. E questo è anche il motivo per il quale spesso le banche centrali di tutto il mondo cambiano periodicamente le serie delle banconote, proprio per destare nuovamente l'attenzione dell'utente nel maneggiare il denaro e nel guardare gli elementi di sicurezza che sono contenuti in una banconota. Certo che il numero di serie, diciamo, tenente colonnello, è un aspetto che magari a noi come consumatori non interessa molto, interessa però molto voi forze dell'ordine, perché attraverso quel dato così importante che ha posto sulla banconota riuscite magari a seguire il percorso che la banconota falsa ha compiuto. Sì, questo è vero. Degli addetti ai lavori il numero di serie ha una certa importanza, consente di catalogare, di classificare insieme ad altri elementi una banconota contraffatta. E proprio seguendo queste caratteristiche della banconota contraffatta è possibile, diciamo, tracciare una linea, seppur debole, del percorso che seguono le banconote dal luogo di produzione fino alla distribuzione in Italia e anche nel resto d'Europa. Quindi sicuramente è un dato che per gli addetti ai lavori ha una sua rilevanza. Allora, visto che abbiamo sollevato questo aspetto, l'aspetto della disattenzione dell'utente nei confronti di questo fenomeno, cerchiamo un po' di dare qualche indicazione su come riconoscere una banconota falsa nel caso avessimo il sospetto di avercela ritrovata fra le mani. Allora, intanto al tatto, che cosa devo sentire, tenente Farrugio? Ma queste del tatto sono una delle tipiche, delle tre parole magiche che usa la BCE, la Banca Centrale Europea, nel dare del consiglio al consumatore: guardare, toccare e muovere. Il consiglio che do subito io, per la verità, è quello di subito guardare una banconota che sospetta di falsità e confrontarla subito con una banconota che è certamente genuina. E saranno subito evidenti delle differenze che possono essere, non so, nella definizione dei caratteri piuttosto che nella nitidezza di un'immagine o nei contorni delle figure. Poi, solo dopo che si è fatto questo confronto, andare proprio a guardare gli elementi di sicurezza, che sono una banconota, sono moltissimi, qui ne potremmo citare almeno una quindicina, ma tra i più significativi abbiamo appunto al tatto, abbiamo detto, di cui parlava lei, sicuramente quella della carta filigranata, che non tutti sanno, la banconota è prodotta con delle fibre di cotone, cioè la carta delle banconote è fatta di cotone, mentre invece le banconote false generalmente vengono prodotte con carta comune. Ma oltre a questo abbiamo ad esempio la cosiddetta striscia olografica, per esempio, che è presente sul bordo delle banconote di un piccolo taglio, quale da 5, 10, 20 euro, che è sostituita dal patch olografico sulle banconote di più grosso taglio, quindi da quelle da 50, 100, 200 euro, che è quella placchetta argentata che è visibile appunto sul lato della banconota. Poi appunto sentire il tipico fruscio della carta, la consistenza delle banconote e il filo di sicurezza, che è appunto uno degli elementi di sicurezza più famosi. Si può ancora andare a guardare, non so, un'immagine numerica del valore facciale delle banconote di più grosso taglio, che è stampata con un inchiostro cosiddetto otticamente variabile, un inchiostro OBI che cambia cioè colore alla diversa inclinazione della luce. E poi se è possibile andare a utilizzare anche dei piccoli strumenti, non so, una lente di ingrandimento, per esempio, che consente di scoprire che all'interno della banconota ci sono delle piccole microscritture che in genere nelle banconote false non sono presenti. E poi direi anche, tenente colonnello, in ultima istanza, se poi proprio non siamo convinti e magari abbiamo di fronte a noi una banconota che è particolarmente ben contraffatta, anche se questo non è esattamente vero in questo momento, lei ci diceva in realtà non sono di grande qualità le banconote false in circolazione, si può comunque sempre andare dalla Guardia di Finanza e cercare di farsi aiutare, no? A riconoscere una banconota, sì, non in, certo, regola. La Guardia di Finanza, proprio appunto per le sue, diciamo, specifiche competenze in materia di polizia economica e finanziaria, è una delle forze di polizia, anzi la forza di polizia incaricata in via prioritaria, diciamo, a svolgere un'attività di contrasto alla falsificazione dei mezzi di pagamento. E in questo possiamo anche contare sul servizio 117, che è un servizio attivo 24 ore su 24, e il cittadino, a quale cittadino si può senz'altro rivolgere, ricevere subito un primo parere sull'autenticità della banconota, il che evita anche di entrare in discussione con colui che gli ha ceduto la banconota, la moneta, esatto, alta, e poi in ogni caso con chi l'ha ceduta voi una chiacchierata ce l'è andata a fare per capire. Ovviamente sì. Necessario. Senta, tra l'altro ho anche avuto modo appunto di capire, documentandomi per parlare di questo argomento con lei questa mattina, che qualora dovessimo imbatterci in una banconota falsa, ovviamente possiamo solamente denunciare questa situazione, ma nessuno ci rimborsa, nessuno ci risarcisce per questo. Sì, è vero, i soldi falsi vengono, una volta scoperti, vengono ritirati e non vengono sostituiti con un denaro originale dello stesso valore. E questo è il motivo per il quale appunto alla fine dei conti le vere vittime dei falsari sono i consumatori finali, cioè gli ultimi anelli di una catena di distribuzione che parte dal luogo di produzione, nel giro di pochi passaggi di mano finisce inesorabilmente per essere ritirata. Quindi anche la banconota falsa ha una vita breve, nel momento in cui arriva presso un intermediario finanziario, una banca, un ufficio postale, so, anche agenzie del territorio, insomma intermediari finanziari in genere, la banconota viene ritirata, c'è cioè l'obbligo del ritiro. Insomma, massima attenzione allora da parte di tutti i consumatori. Io ho terminato il tempo a mia disposizione, Tenente Colonnello, però volevo ricordare di un'iniziativa di cui vi siete fatti promotori come Guardia di Finanza insieme ad altri enti, una mostra molto carina proprio sulla storia della falsificazione. Si è svolta in novembre in Roma, ma questa mostra mi risulta che sarà itinerante in Italia, forse anche all'estero, questo sì. Tanto per dimostrare che insomma la tentazione di falsificare c'è dai tempi dell'antica Roma fino a partire dai sesterzi. La ringrazio molto, le auguro una buona Prego. Giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie. Alessandro. Eccoci qua, allora. Eccolo qua. Salva Danaio. Dove li vuoi piazzare i tuoi sesterzi falsi? Salva Danaio, oggi sai la famosa regolarizzazione selettiva di colf e badanti? Mm-hmm, cercheremo certo. di capire da settembre cosa devono fare le famiglie che devono sistemare queste situazioni. Benissimo. Sono le 8:32, ben ritrovati, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Il ministro della difesa La Russa parlerà oggi alla Camera della situazione in Afghanistan, dove ieri il parà della Folgore Alessandro Di Lisio è stato ucciso in un attentato, altri 3 militari italiani sono rimasti feriti non gravemente e ne parleremo tra pochissimo. Condanna a 6 anni di carcere per l'agente Luigi Spaccarotella, accusato di aver ucciso nel 2007 il tifoso laziale Gabriele Sandri in un autogrill. L'accusa aveva chiesto una pena di 14 anni. Me l'hanno ucciso 2 volte, ha detto la mamma di Sandri. E nella notte tensione con alcuni tifosi che hanno lanciato sassi e bottiglie contro un contingente della polizia e una stazione dei carabinieri. Oggi per la politica il governo esamina il documento di programmazione economica finanziaria 2010-2014. Il ministro dell'economia Tremonti ha indicato tra gli obiettivi la tenuta dei conti pubblici, la coesione sociale e la liquidità per le imprese. E infine per lo sport il ciclismo al Tour de France continua il sogno dell'italiano Nocentini, 4º giorno consecutivo in maglia gialla. Ieri la tappa è andata al britannico Cavendish. Tutto questo alle 8:33 minuti, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666, come detto parliamo di Afghanistan, ne abbiamo parlato di recente e avevamo detto purtroppo, attenzione perché il numero degli attacchi stanno aumentando nei confronti degli italiani e non solo degli italiani, ieri purtroppo c'era da registrare la vittima, Alessandro Di Lisio, parade della Folgore appunto. Io intanto saluto Alberto Negri, inviato in Afghanistan. Alberto, ci senti? Buongiorno. Alberto, buongiorno a voi. Eccoci qua. Alberto, tu oggi hai scritto un articolo molto netto sul Sole 24 Ore, un lungo reportage molto interessante, ne leggo solo un tratto. Questa è la guerra degli italiani, scrivi, non troppo diversa da quella degli americani, con lo stesso nemico e gli stessi pericoli, ma che da noi non si può chiamare guerra, per un'ipocrisia sottile, insidiosa come la sabbia del deserto di Farah, che da tempo avvolge questa missione nel nord-ovest di Herat, 3.200 uomini. Siamo in guerra, hai scritto, Alberto. Ma ho scritto siamo in guerra semplicemente perché è la realtà. In realtà quando accade che c'è un nemico che ti attacca naturalmente con i mezzi e le armi che ha a disposizione e ti impedisce di fare quella che è il tuo lavoro, quello per cui sei qui, cioè la famosa missione di stabilizzazione dell'Afghanistan. Una missione di stabilizzazione che è fatta di molte componenti, militari, civili, di costruzione dell'esercito nazionale, di ricostruzione dello Stato afghano, ma che inevitabilmente trova l'opposizione armata e mortale di un nemico come quello talebano, delle bande che comunque sono alleate con i talebani, che si configura come una guerra, una guerriglia certo, non è una guerra convenzionale, non è una guerra che è stata dichiarata con delle dichiarazioni ufficiali, non ci sono in vigore codici di guerra da parte nostra, ma insomma di questo si tratta, di un conflitto armato che comunque è pericoloso e che comporta delle vittime. Si è detto ci sono le elezioni, credo il 20 agosto, le elezioni presidenziali, bisogna secondo te legare anche a questo, questa escalation, questo aumento di attentati? Ma l'escalation è dovuta essenzialmente a 2 motivi. La prima è quella dell'offensiva che c'è stata nel Helmand da parte degli Stati Uniti con l'operazione Colpo di Spada. Questa operazione militare ha sicuramente disturbato moltissimi italiani che hanno reagito, come abbiamo visto, con con questi ordigni esplosivi che hanno fatto molte vittime, tra l'altro, tra i militari britannici. Ma poi che cosa succede? Succede che queste bande armate di talebani poi, come invasi comunicanti, penetrano nelle province vicine, e quella di Herat nel sud della provincia di Farah, tra l'altro proprio dove mi trovo adesso, è comunicante con l'Helmand, e quindi cercano vie di fuga da questa parte, vengono qui a raggrupparsi, addestrano i gruppi locali e naturalmente conducono degli attentati contro le truppe internazionali che sono qui. Poi ci sono le elezioni che in molte zone i talebani non vorrebbero tenere, in altre sì, a seconda dei rapporti che hanno, che mantengono con il governo Karzai, e che il 20 agosto saranno una prova importante per capire che se questo paese in qualche modo può rendere accettabili delle consultazioni, che queste consultazioni non provochino poi ulteriori destabilizzazioni. Tra l'altro io voglio salutare con noi anche il generale Carlo Cabigiosu. Generale, buongiorno. Buongiorno a voi. Il generale Cabigiosu ha una lunghissima esperienza di missioni italiane all'estero, insomma è stato sia capo della KFOR in Kosovo, consulente militare in Iraq, oggi credo si occupi proprio per la NATO, ha questo ruolo senior mentor, si dice così, cioè di preparazione anche dei comandanti della NATO che poi vanno lì, no, generale? Sì, esatto. Le chiedo, lei anche nel 2008 in un'intervista aveva detto servono più uomini, serve un maggiore controllo, altrimenti c'è il rischio magari di conquistare dei villaggi, poi andare via e lasciare anche la popolazione civile esposta alle ritorsioni dei talebani. Servono più uomini, più mezzi, più militari in Afghanistan in questo momento? Beh, direi che il processo ormai è iniziato, quello di rendere più forte la NATO, ma soprattutto quello di addestrare gli afghani a condurre a fianco alla NATO quella che è una loro esigenza, quella di dare stabilità al loro paese. Oggi ci sono oltre 70.000 uomini nell'esercito afghano, abbastanza ben preparati, nei quali sono inseriti dei nuclei di consiglieri e addestratori di tutte le nazioni della NATO. Anche noi italiani abbiamo dei rapporti particolari con le unità di un corpo d'armata afghano che sta nella zona di Herat, e diciamo con questo procedimento si tenta di riprendere il controllo anche di certe zone che non sono mai state tolte ai talebani. Oggi questo processo è in corso ed è per questo anche che si manifestano queste resistenze da parte dei talebani con una maggiore virulenza di quanto non fosse successo prima. Però come fare, voglio dire, a controllare maggiormente? Lei mi insegnerà che non è che si può, anche la storia ha bocciato questi tentativi da parte di tutti gli eserciti che sono andati in Afghanistan, non si può controllare interamente un paese. Ci sarà quella che Obama comincia a definire una sorta di via d'uscita lontana chissà quanto, però insomma non potremo restare in eterno in questo paese. Beh, no? Tutti parlano di un exit strategy, cioè una via d'uscita, ma certamente non in questo momento, perché la via d'uscita è legata anche all'acquisizione di un qualche risultato positivo. Lo sforzo che sta esercitando la comunità internazionale, non solo la NATO, anche il Fondo Monetario Internazionale, altre organizzazioni che fanno parte di questa rete di organizzazioni internazionali insieme all'ONU, vogliono ottenere dei risultati che portino alla stabilizzazione di un'area che, per quanto possa sembrare non importante ai fini della strategia globale di pace e di stabilità nel mondo, invece lo è, perché accanto a quei paesi come la Cina e l'India, che si stanno aprendo a nuove prospettive di potenza verso l'intero pianeta, ma che per poterlo fare in maniera pacifica devono anche avere un ambiente generale di stabilità nel quale operare senza sussulti. Chissà, una exit strategy. Vorrei andare e tornare in Afghanistan dal nostro Alberto Negri. Alberto, a parte che mi ha colpito molto, visto che tu hai citato sia quello che sta succedendo nella provincia di Helmand, cioè la grande offensiva americana, no? Visto che le immagini contano, a me questo tarlo, aver visto la figlia di Obama qui a Roma con la maglietta col simbolo della pace, no? Si è presentata, dice, vedete la figlia del presidente americano col simbolo della pace. Contemporaneamente è in atto la più grande offensiva militare in Afghanistan dai tempi del Vietnam, questo nella provincia di Helmand. Allora, questo giusto per la cronaca. Alberto Negri, exit strategy, è possibile? Tu che conosci anche la storia dell'Afghanistan e che sai che nessun esercito ce l'ha fatta conquistare quel paese o comunque a normalizzarlo? Gli strategici che siano gli afghani stessi a riconquistare il loro paese. Cioè, è chiaro che noi stiamo combattendo un conflitto che ha molti livelli. E certamente il più importante di tutti, come diceva prima il generale Capisoglio, perlomeno uno dei più importanti, è l'addestramento dell'esercito nazionale afghano, che sta avvenendo con grandissimo impegno da parte della NATO e anche e soprattutto anche dei soldati italiani che stanno cercando in ogni modo di favorire questa costruzione. Intanto la missione dove ieri è morto il primo caporal maggiore di Ligio era una scorta che veniva fatta a dei soldati afghani che stanno costruendo una caserma in un posto avanzato, quindi in piena linea con quella che è la missione internazionale affidata al nostro contingente. Non siamo usciti fuori dal seminato, stavamo facendo quello che ci viene richiesto: la costruzione di un esercito nazionale, la costruzione di un rapporto di fiducia con la popolazione. Questo è molto importante perché non è soltanto una questione di mezzi tecnologici, proteggersi dagli ordigni e da queste cose, non c'è poi alla fine tecnologia che ti possa riparare abbastanza, e quella usata dagli italiani tra l'altro è il primissimo ordine, addirittura acquistata da altri eserciti. Ti vuole una particolare azione sul territorio che costituisca rapporti di fiducia con la popolazione e che in qualche modo gradualmente, a poco, con grande pazienza, costruisca quel terreno importante per avere uno Stato e una società civile accettabile. Generale Capigioso, visto che Alberto Negri ha parlato anche dei mezzi, si è fatto tanto riferimento a questo mezzo blindato Lince, che tante volte ha protetto in passato, nel recente passato, i nostri militari dalle esplosioni. Purtroppo questa volta spiegava ieri anche i militari dall'Afghanistan, evidentemente l'esplosione è stata talmente violenta da non riuscire a proteggere totalmente uno dei nostri militari, almeno purtroppo quello che è morto. I nostri mezzi sono comunque adeguati lì? Ma io penso che siano all'altezza di quelli di tutti gli altri paesi e certamente anche meglio di alcuni di quelli che adoperano altri contingenti. Non ricordiamoci che la varietà dei contingenti è tale che anche i mezzi sul terreno siano estremamente diversi tra contingente e contingente. I meglio addestrati e meglio preparati sono sempre gli americani e gli inglesi, ma noi italiani non abbiamo niente da invidiare e per quello che dobbiamo fare siamo ben attrezzati. Adesso abbiamo a disponibilità di questi mezzi Lince che, nonostante quanto accaduto ieri, sono sempre allo stato dell'arte tra i migliori mezzi. Abbiamo elicotteri armati, abbiamo altri mezzi corazzati e blindati che ci aiutano a proteggere i nostri soldati durante le loro missioni, però non è la guerra, come diceva prima Negri, di tipo convenzionale in cui il mezzo conta tanto quanto conterebbe in un conflitto contro delle altre certo. truppe regolari. Qui l'insidia e il tipo dell'attacco possono sempre trovare il modo di colpire alcuni soldati. Perché è improvvisato, anche un po' artigianale, insomma, grezzo. È artigianale, quindi... però è molto efficace. Certo. Il numero maggiore di perdite che sono state subite dagli eserciti della NATO in Afghanistan negli ultimi 2 anni è proprio dovuto a questi ordini posti lungo i percorsi che le nostre pattuglie seguono nelle loro attività e che vengono fatti a esplodere con vari artifici anche molto semplici, dai congegni che servono normalmente per aprire le porte dei garage ai telefonini, ma anche in questo senso sono stati fatti molti progressi. Abbiamo la possibilità di neutralizzare le onde magnetiche che vengono utilizzate da questi sistemi per far esplodere a distanza l'ordigno, però c'è però anche il vecchio sistema tradizionale del filo con la miccia eccetera, quindi e poi non dimentichiamo che questa gente combatte da 30 anni, è determinata e quindi non è facile da portare a una trattativa, perché poi in fondo questo è quello a cui si deve arrivare. Bisogna arrivare a una trattativa con i talebani moderati in modo da togliere il terreno sotto i piedi a questa che poi in fondo non è che una setta, non è un popolo che cerca la libertà, certo. È una setta che vuole affermare dei principi che sono contrari molto spesso ai diritti umani e a quello che noi concepiamo come normalità nella vita e nell'esistenza delle persone. Io vi ringrazio, sia il generale Carlo Cabigiosu che il nostro Alberto Negri in Afghanistan. Eccoci qua, dopo un po' di pubblicità, una lunga viabilità. Allora, Salvatore Borsellino, buongiorno. Buongiorno. Salvatore Borsellino è il fratello di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia in via D'Amelio. Il 19 luglio, tra l'altro, ricorre l'anniversario del 92. Allora, Ciancimino Junior, anche oggi ho tutte le carte segrete che spiegano il patto tra mafia e Stato. Questa volta le consegno, anche oggi un'intervista a Tiglio Bolzoni e Francesco Viviano su Repubblica. Lei, Borsellino, ha sempre sostenuto che suo fratello è stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa, tra cui anche questa trattativa tra Stato e mafia? Ma io non credo che soltanto che avesse scoperto qualcosa, io credo che sia stato addirittura, non poteva essere altrimenti, informato dalle organi istituzionali di questa trattativa che era in corso tra mafia e Stato, perché è una persona che sicuramente doveva essere informata, in quanto erano in mano a lui in quel momento tutte le indagini che riguardavano proprio l'assassinio di Falcone e il diciamo la lotta alla criminalità organizzata in Sicilia almeno, per cui non poteva Paolo Borsellino non essere informato di questa trattativa. E io ritengo, ho sempre ritenuto, lo sostengo, ho cominciato a sostenerlo con una lettera aperta scritta nel 2007 che si chiamava proprio 19 luglio 1992, una strage di Stato, che è il motivo della assassinio di Paolo, dell'accelerazione, diciamo, della eliminazione di Paolo, sia stato proprio il fatto che Paolo si sia messo di traverso rispetto a questa trattativa nel momento in cui ne è stato informato, io ritengo, al Ministero dell'Interno il 1 luglio del 1992. A questo punto era necessario, per poter condurre avanti trattative, eliminare quello che era l'ostacolo principale, cioè Paolo Borsellino, ed eliminarlo anche in fretta. Si parla anche di questo famoso papello, cioè le richieste avanzate da Riina per cessare la stagione delle stragi. Ancora oggi Ciancimino dice: lo consegnerò. Fino a 4 anni fa era nella mia cassaforte, nella cassaforte di casa mia a Mondello. Un giorno mi fecero una perquisizione i carabinieri, ma non aprirono la cassaforte, non so perché, eppure era ben visibile. Dobbiamo credere all'attendibilità del figlio di Ciancimino, ricordiamo, condannato per mafia? Io credo che ci sia da chiedere sul motivo del perché non sia stata aperta quella cassaforte. Ritengo che sia lo stesso motivo per il quale è stato permesso, dopo la cattura di Riina, è stata lasciata incustodito il rifugio di Riina fino a quando diciamo squadre della criminalità organizzata hanno potuto prelevare questa cassaforte e ripulire completamente la casa, e visto che le cose che c'erano contenute in quella cassaforte non dovevano venire fuori. Evidentemente il contenuto della cassaforte di Ciancimino, sebbene non della ricchezza di quello che poteva contenere in termini di carte, in termini di rapporti tra mafia, tra Stato e antistato, poteva essere contenuto nella cassaforte di Riina, qualcosa di simile ci poteva essere nella cassaforte di Ciancimino, e quindi ritengo che questo è il motivo per il quale non sia stata aperta e perquisita. Senta, ma se una verità, se c'è una verità da scoprire, un qualcosa di ancora molto offuscato in tutti questi anni non è stato scoperto, perché si deve pensare che ora si possa arrivare a svelare qualche cosa di più? Ma io ritengo che si siano determinate delle condizioni in questo particolare lasso di tempo, per cui con un procuratore come Sergio Lari alla procura di Caltanissetta, che credo che stia lavorando in maniera assolutamente egregia, e con magistrati come Ingroia, come Di Matteo alla procura di Palermo, credo che la collaborazione tra queste due procure sia una spinta fondamentale per portare avanti quei processi che non è che non sono iniziati, il problema è che sono stati bloccati ai tempi di Tinebra all'interno della procura di Caltanissetta e che non hanno potuto andare avanti. Basta leggere il libro Colletti Sporchi scritto da Tescaroli, che sulla da Tescarola e da Ferruccio Pinotti, che di quel processo ai mandanti occulti cosiddetti e dell'archiviazione contrastata di quel processo parlano in maniera chiara ed evidente per capire perché certe cose non hanno potuto andare avanti. Adesso sembra che tra la collaborazione di Giancimini, il quale sicuramente non ritengo che sia un pentito, ma sicuramente una persona che cerca di salvare il salvabile, quel famoso tesoro di Ciancimino del quale non si è mai... Per il quale è stato anche condannato anche in primo grado. Per il quale è stato condannato, ma che sicuramente, insomma, quando gli hanno sequestrato ai tempi della roba, lui ebbe a dichiarare una volta: mi hanno levato un pelo e non continuo, per dire che gli era stato sequestrato, era stato individuato semplicemente una minima parte di quel tesoro. Adesso probabilmente ha scelto di collaborare con la giustizia e sta dando un validissimo contributo sicuramente per poter in qualche maniera patteggiare la sua impunità rispetto a certi problemi. Staremo a vedere. Intanto lei il 19 luglio ovviamente sarà in via D'Amelio, insomma, manifestazione. C'è una manifestazione un po' particolare quest'anno, ho letto, con una marcia con un'agenda rossa in mano. La fate ancora? La fate? Sì, sì, sicuramente la facciamo, perché quest'anno quello che io ho voluto fare è rompere rispetto alle manifestazioni che sono avvenute da 17 anni a questa parte, in cui praticamente ci hanno continuato a imporre quei funerali di Stato che noi avevamo rifiutato nel 92, perché avevamo sentore allora sicuramente di una non adeguata protezione di Paolo da parte dello Stato, e allora rifiutammo i funerali di Stato. Da 17 anni a questa parte ce li impongono con delle autorità, chiamiamole tra virgolette, che vengono in via D'Amelio, scoprono corone, mettono corone, pronunciano discorsi spesso a mio avviso ipocriti, e quindi è questo che io voglio evitare quest'anno che succeda. Quindi faremo una manifestazione pacifica di protesta, nella quale se qualcuno si dovesse presentare, e io spero che non lo faccia come gli altri anni, a scoprire, a mettere corone in via D'Amelio, a pronunziare discorsi di circostanza, sarà accolto da un mare di persone che arriveranno da tutta Italia, tra l'altro, semplicemente con un tam tam fatto sulla rete, e avranno in mano un'agenda rossa, la stessa agenda rossa con la quale faremo il giorno precedente una marcia al Castello Ottiveggio per unire agenda rossa più Castello Ottiveggio, i due simboli di quelle indagini, di quei processi che non sono andati avanti, cioè quello che riguarda la sparizione dell'agenda rosso, che si è conclusa in maniera assurda con l'assoluzione di una persona che era stata fotografata e ripresa da telecamere con la borsa di Paolo in mano, e nonostante questo non è stata assolta e non si è arrivata alla fase dibattimentale del processo. E l'altra, per quanto riguarda il Castello Ottiveggio, dal quale, come le indagini di Gioacchino Genchi, prima che fosse bloccato nel 94, hanno dimostrato, è a mio avviso quasi sicuramente partito il segnale che ha determinato l'esplosione. La strage. Mi devo fermare qui, la ringrazio, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino. I ringraziamenti a tutti, ci sentiamo domani.